uomini sono deboli, crescono senza disciplina, poi tentano il suicidio perché manca l'autostima. Sanno che si può fermarsi prima, ma hanno paura dei problemi, quindi staccano la spina e le lacrime non danno soluzione. Ai vostri figli serve solo che gli diate più attenzione. Sanno cosa fate, studiano il sistema e appena vi girate vi pugnalano alla schiena. I vostri figli vivono senza ambizioni, non hanno orgoglio, né ideali né valori. Anime vuote gettate al vento, la verità è una sola. I vostri figli sono morti dentro e la colpa è solo vostra. Sbagliare costa e non sempre ad ogni tipo di problema c'è risposta. Ai vostri figli manca l'affetto, come faccio a saperlo? Beh, me l'hanno detto. Ma i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. E i vostri figli fanno bene, e i vostri figli fanno male. E i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. E i vostri figli fanno bene, e i vostri figli fanno male. I vostri figli sono esempi di violenza e di ignoranza, branchi di generazione senza tolleranza, futuri criminali. Troppo sicuri di se stessi, rifiutano i consigli e non rispettano gli anziani. Voi ne soffrirete, sarà troppo tardi quando ve ne accorgerete. La macchia non si lava, i vostri figli perdono la vita in strada, ma è con il vostro sangue che si paga. Le vostre figlie fanno le regine, si credono donne ma in realtà sono bambine. Poco intelligenti e troppo avide, fanno sesso non protetto, poi restano gravide. E voi non mantenete il passo, no, o non siete capaci o non ve ne frega un cazzo. Sono il portavoce della mia nazione e i vostri figli mi ascoltano perché sanno che ho ragione. Ma i vostri figli mi hanno detto, i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. Dimmi cosa ti hanno fatto. E i vostri figli fanno bene, ti ha detto sì che fanno bene. E i vostri figli fanno male, e i vostri figli mi hanno detto, i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. Dimmi cosa ti hanno fatto. E i vostri figli fanno bene, ti ha detto sì che fanno bene. E i vostri figli fanno male. Si ritrovano al mondo, vogliono sapere perché voi mentite. La cosa peggiore è sapere che sei stata una sorpresa quando invece è un errore. Queste cose hanno un prezzo e un minimo difetto passa dall'affetto al disprezzo. I vostri figli vi odiano, si drogano, bevono, fumano, si impasticcano e poi muoiono. Spine dorsali che non stanno su, ha ragione Crepè, i figli non crescono più. Schiavi di una vita in digitale, ai vostri figli parlerete in beat per poter comunicare. E in questo mondo non si sentono al centro perché mai hanno avuto un punto di riferimento. I vostri figli sono peccatori e l'educazione di un figlio rispecchia i propri genitori. Ma i vostri figli mi hanno detto, i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. Dimmi cosa ti hanno fatto. E i vostri figli fanno bene, ti ha detto sì che fanno bene. E i vostri figli fanno male, no. E i vostri figli mi hanno detto, i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. Dimmi cosa ti hanno fatto. E i vostri figli fanno bene, ti ha detto sì che fanno bene. E i vostri figli fanno male. Ma i vostri figli mi hanno detto, i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. Dimmi cosa ti hanno fatto. E i vostri figli fanno bene, ti ha detto sì che fanno bene. E i vostri figli fanno male, no. E i vostri figli mi hanno detto, i vostri figli mi hanno detto, ma i vostri figli mi hanno fatto. Dimmi cosa ti hanno fatto.